Stai, stai, stai con me. Io non chiedo di più che trovare il modo giusto per dirtelo. Come un cucciolo aspetta il padrone, io che parlo d'amore. Io non so se capirai le mie abitudini o no, se il tuo amore è un altro modo di vivere. Ogni donna ha una storia da dare. Lasciami, lasciami entrare. La solitudine è una strana compagna. Lei ti sorride come una puttana e poi ti lascia senza il fiato per poter gridare. Tu stai con me. Amami, toccami il cuore. Lo senti, io sono qui. E non avere più paura di lasciarti andare. Ogni uomo ha una storia da dare. Lasciami, lasciami entrare. Passa fuori e dentro di me, ti guardo e tu non ci sei, e il tuo viso è solo un gioco dell'anima, niente di più, niente di più. Dove sei andata? Dimmi quando verrai, amore nuovo chi sei? Io lo so che stai tentando di dirmelo. Io non so se capirai